Maragüe, da Godzilla Empire, cash me. Ero già Young Pop prima di Jude Law, 1,90 m di rime di flow. Gli amici che ho, super criminali siamo sui side school. Pelle cara come Adide Delevingne, non ha dentro un cazzo a parte il mio Nami. Montagne di coca fanno fiumi di euro, la mia vita, euro Disney. Compro oro, vedo un compro oro, tu cambia lavoro che ti vedo giù. Che di questo passo fra le feste santa, quando il cazzo non ti tira più. Ci scambiamo questa banda nara che si scopa quelli della stessa squadra. Spendo come una puttana, che il mio portafogli scapperà di casa, cash. Penso a 500.000 euro fa. Ho giocato bene, quindi level up. Senti il materiale, dici serietà. Faccio altre due serie, niente ferie fa. Kashmir nell'armadio, cascia la roulette. Lei col culo che non entra nei Balmain. Kashmir, Kashmir. Fratello mio, anche un milione iniziato da uno. Sono leggenda, frate, come Zelda, cavalco una zebra, gue per papicciulo. Sotto ste Nike c'è solo l'inferno, sopra di me c'è solo il paradiso. Il flow garanzia, frate, senza l'avviso. Innamorato di me, me Narciso. E c'è una tipa che è un'opera d'arte, tipo Mona Lisa, solo più figa, darling. Io penso solo a dei modi per farli, poi metterli dentro una platino visa. Non ho pietà, frate, se sei carino. Giro con vari sicari schizzati, che sembra che ha la cocaina dentro al barattolo di proteina. Quante persone mantengo, tu non capisci dei giochi al Nintendo. Perché sei un junior boca, e quando parli di me devi sciacquarti la bocca. Oggi è arrivata sta qua dalle Hawaii, bravo tu, tienimi un po' il suo chihuahua. Mentre la bombola suita l'ushuaia, e mi estracco il metallo più di tua maraia. Penso a 500.000 euro fa. Ho giocato bene, quindi level up. Senti il materiale, dici serietà. Faccio altre due serie, niente ferie fa. Kashmir nell'armadio, cascia la roulette. Lei col culo che non entra nei Balmain.